Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 669. Una puntata questa con tantissime novità discografiche dall'Italia e dall'estero, con una particolarità, linguaggi molto diversi tra loro, interessanti, stimolanti, che spero renderanno la trasmissione veramente gradevole per voi. Per me lo è stato ascoltare e selezionare tutti questi bei pezzi dai CD di grande qualità che sono pervenuti in questi ultimi tempi. Iniziamo subito con una pubblicazione di due nomi conosciuti a livello internazionale, Charlie Hayden e Gonzalo Rubalcaba. Si tratta di uno dei più grandi contrabbassisti del mondo, Charlie Hayden, che insieme a Gonzalo Rubalcaba, pianista di ottima fattura con il quale collabora fin dagli anni 80, hanno realizzato questo bel CD intitolato Toccaio Adagio, e l'hanno fatto per la Universal Records. Da questo CD noi ci potremo ascoltare una composizione originale intitolata Sandino. Buon ascolto con Charlie Hayden e Gonzalo Rubalcaba. Thank you. Beh, eleganza, straordinaria sensibilità, poesia per questa musica che ci siamo ascoltati, che ci hanno offerto Charlie Haden e Gonzalo Rubalcaba, un duo, come dicevo prima, che suona insieme fin dagli anni 80 con grande feeling, e sicuramente in questo pezzo mettono in evidenza la loro grandezza, la loro straordinaria poesia. Toccaio Adagio è il titolo del CD, il pezzo che ci siamo ascoltati era una loro composizione originale intitolata Sandino. Ricordo che il CD è stato pubblicato dalla Universal Records. Ed ora cambiamo registro e andiamo ad ascoltare una cantante che io ho avuto il piacere di promuovere più volte nel Festival delle Voci Jazz Italiane, Rachel Silva Jolie. Rachel Silva Jolie si ripresenta ad Anima Jazz con una pubblicazione veramente molto delicata, molto bella, molto raffinata, Flor de Lis, Jazz, Piano and Brazilian Guitar Style, pubblicato dalla GB Music. Il parco dei musicisti è molto ricco, oltre la presenza di Rachel Silva Jolie alla voce e alla chitarra, abbiamo anche degli special guest che si susseguono nelle varie tracce. Abbiamo musicisti di grande rilievo sia nazionale che internazionale. Abbiamo Fabrizio Bosso, Robertinho De Paula, Sebi Burgio, Daniela Spillman, Alberto Fidone e Moreno Romagnoli. Dai giovani più promettenti del jazz italiano ai musicisti ormai di grande prestigio anche internazionale. Stasera da questo bel disco ci potremo ascoltare Beijo Partido. Buon ascolto quindi con Rachel Silva Jolie. Thank you. Questa era la voce di Raquel Silva Jolie. Raquel Silva Jolie che insieme allo straordinario chitarrista Robertinho De Paula ci ha fatto ascoltare questa Beijo Partito, che è un pezzo tra i più poetici, tra i più gradevoli di questo bellissimo CD intitolato Flor de Lis, Jazz Piano in Brasilia Guitar Style, pubblicato dalla GB Music. Raquel Silva Jolie in questo progetto discografico mette in evidenza le sue doti non solo professionali, una cantante pronta a eseguire qualsiasi linguaggio jazzistico con grande disinvoltura, con grande preparazione, ma veramente una sensibilità particolare esce fuori in questo disco, nel quale le sue interpretazioni sono sempre piene di variazioni, di interpretazioni espressive veramente di alto valore. Ancora una volta Raquel Silva Jolie quest'anno è stata selezionata appunto per il Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, e quindi ci sarà occasione di riascoltarla da ottobre in poi, quando partirà il festival. Adesso proseguiamo sempre con questo gioco del jazz nazionale e del jazz internazionale con Allison Au Quartet, che ha realizzato un bel CD intitolato The Sky Was Pale Blue, Dan Gray. Un CD veramente interessante che mi ha colpito e che vi voglio far ascoltare attraverso uno dei pezzi che mi hanno coinvolto maggiormente, The Orchid. La formazione vede Allison Au al sax alto, Todd Pentney al pianoforte, Jon Marai al contrabbasso e Fabio Ragnelli alla batteria. Buon ascolto con Allison Au Quartet dal CD The Sky Was Pale Blue, Dan Gray. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la musica della bravissima sassofonista Alison Howe, che con il suo quartetto ci ha fatto ascoltare The Orchid, una composizione originale tratta dal CD The Sky Was Pale Blue Dan Gray. Veramente una brava sassofonista, ma supportata meravigliosamente da questo quartetto che è ricco di elementi veramente di grande qualità, capace non solo di accompagnare in modo pulito e puntuale, tutta la sezione ritmica sicuramente è sempre all'altezza della situazione, ma anche di offrire delle belle performance personali, veramente una ottima band. Ricordo il nome dell'artista, Alison Howe, con il suo quartetto dal CD The Sky Was Pale Blue Dan Gray, e noi ci siamo ascoltati The Orchid. Adesso, sempre per l'alternanza estero-Italia, ritorniamo in Italia e ci ritorniamo con Francesca Corrias, un'ottima cantante che noi abbiamo già avuto nei nostri programmi e che ritorna con un suo progetto veramente molto interessante, meritevole della massima attenzione. Francesca Corrias ritorna ad Anima Jazz con questo CD intitolato Songshine. Il gruppo che accompagna Francesca Corrias in questa avventura discografica è formato da Stefano Danna al sax, Alessandro Di Liberto al pianoforte, Filippo Mendola al contrabbasso, poi abbiamo Pier Paolo Frailis alla batteria e poi ci sono anche alcuni ospiti che sono presenti in alcune tracce del CD, tra i quali David Linz alla voce e Roberto Migoni a marimba. Francesca Corrias stasera ci farà ascoltare un pezzo scritto da Stefano Danna intitolato The Prisoner's Lament. In questo CD Francesca Corrias non solo cura la parte vocale, ma suona anche il flauto e cura le loop station. Buon ascolto quindi con Francesca Corrias. Can't you bear this? Woe is me, dwelling me. E questa era la brava Francesca Corrias, veramente un'ottima artista che può contare su un ensemble veramente straordinario. Molto bravi tutti i musicisti che sono presenti in questo progetto discografico. La composizione, una composizione originale di Stefano Danna, il sassofonista del gruppo, ma tutti i musicisti in questo, non solo in questo pezzo, ma nel CD, veramente riescono a offrire delle pagine di ottima musica. Francesca Corrias è un'ottima interprete con capacità espressive notevoli, con estensioni, con modulazioni, è sicuramente un artista di pregio. E questo progetto discografico è sicuramente molto equilibrato tra la coscienza, il rispetto per la grande tradizione e le istanze contemporanee, le istanze della modernità. Sicuramente un CD che si sente che è stato concepito, vissuto, fatto oggi, ma nello stesso tempo anche si avverte la grande coscienza di tutto quello che c'è stato prima di questo nostro presente, di questa nostra contemporaneità. Quindi una compiutezza non indifferente. Dopo la brava Francesca Corrias con il suo quartetto, è il momento di ascoltare un duo d'eccezione. Si tratta di Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Veramente due artisti straordinari di grande sensibilità, di grande eleganza, raffinatezza, che hanno realizzato un CD intitolato Mare Calmo, e da questo CD ci ascoltiamo una composizione originale intitolata Vals for Katia. Buon ascolto con Giovanni Ceccarelli e Daniele Di Bonaventura. E beh, sono due grandi artisti e quindi non tradiscono mai con la loro qualità e la loro soprattutto sensibilità. Questa bella composizione, Vals for Katia, evidenzia la grandezza di questi due straordinari musicisti, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon, che in ogni tratto di questo pezzo hanno dimostrato quanto è alto il loro livello di partecipazione emotiva, la loro sensibilità espressiva, e quindi sicuramente un pezzo di grande dolcezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, che ci ricorda anche che esiste, con delle connotazioni ben precise, armoniche, poetiche, eccetera, un jazz europeo che si stacca dal jazz americano, dal jazz d'oltreoceano. E anche all'interno del jazz europeo esiste un jazz più mediterraneo ed un jazz nordico. Ecco, questo è riconoscibile come un jazz mediterraneo, con una poesia particolare, con dei colori particolari, con delle atmosfere che soltanto un jazz come quello mediterraneo può offrire. Giovanni Ceccarelli e Daniele Di Bonaventura dal CD Mare Calmo, con questa composizione originale intitolata Vals for Katia. E adesso andiamo avanti con una new entry per quello che riguarda i nostri programmi. Si tratta di una valida artista, Cecilia Sanchietti, che per l'Alfa Music ha realizzato un bel CD intitolato Circle Time, e l'ha fatto con tanti musicisti molto bravi che sostengono questo progetto con grande professionalità. Cecilia Sanchietti è alla batteria, insieme a lei Davide Grottelli ai sax, Gaia Possenti al pianoforte, Stefano Napoli al contrabbasso, e poi in questo CD ci sono anche degli special guest che sono presenti in alcune tracce: Davide Boato alla tromba, al flicorno, Michele Martino alle percussioni e cori, e Mara Rinaldi al voce solista e cori. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è intitolato Etno, è stato scritto da Cecilia Sanchietti e Federica Zammarchi. Buon ascolto. Thank you. Questa era la musica di Cecilia Sanchietti, batterista e compositrice, un'artista completa che ha realizzato questo CD intitolato Circle Time, pubblicato per la Alpha Music, nel quale ci sono composizioni veramente con delle felici intuizioni gradevolissime, come questa di Ethno, questa composizione scritta insieme a Federica Zammarchi, che è una tra le più interessanti, almeno una di quelle che mi ha colpito maggiormente. Una freschezza nella composizione, una certa ricerca di originalità appare insomma in queste composizioni, in un momento in cui abbiamo come ricordo sempre, un panorama artistico jazzistico nazionale veramente di grande qualità, e Cecilia Sanchietti si inserisce in questo giro di gran nuovo buon jazz italiano, sicuramente all'altezza della massima attenzione non solo nazionale. Ricordo che insieme a Cecilia Sanchietti in questo CD intitolato Circle Time insieme a lei suonano Davide Grottelli ai sax, Gaia Possenti al pianoforte, Stefano Napoli al contrabbasso, e poi ci sono special guest come avete sentito in questo pezzo nel caso di Davide Boato alla tromba e flicorno, e poi Michele Martino alle percussioni e cori e Mara Rinaldi alla voce e cori. Lasciamo la brava Cecilia Sanchietti con il suo progetto Circle Time propostoci dalla Alpha Music, e andiamo avanti con una formazione di straordinari musicisti conosciutissimi non solo in Italia ma anche all'estero. E sto parlando di una formazione che vede Javier Girotto al sax soprano e al baritono, e poi Francesco Nastro al pianoforte, Avishai Cohen al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria, tutte stelle di primo ordine che hanno realizzato per Itinera un bel CD intitolato See Inside, e da questo CD ci ascolteremo una composizione originale intitolata B-Song. Buon ascolto con Girotto, Nastro, Cohen e Gatto. Thank you. Straordinaria performance. Questa era B-Song, una composizione originale che ci hanno offerto Javier Girotto al sax soprano, Francesco Nastro al pianoforte, Avishai Cohen al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria. Il CD dal quale è tratto questo pezzo è intitolato See Inside, pubblicato da Itinera. E questi quattro grandi musicisti con questo pezzo hanno offerto veramente poesia allo stato puro, un volo di grande fantasia, di grande professionalità, ma soprattutto di grande libertà nel concepire il processo musicale. Veramente una straordinaria performance, elegante, raffinata in ogni momento e densa di valori espressivi. E adesso, salutando Javier Girotto, Francesco Nastro, Avishai Cohen e Roberto Gatto con la loro grande performance, siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. A proporcelo sarà una cantante molto brava, di grande esperienza, Katie Wolcup, che ha realizzato un CD intitolato The Secret of the Song, dal quale noi ci potremo ascoltare una sua composizione originale intitolata Blues in the Night. In questa performance la nostra Katie Wolcup insieme a Benny Watson al pianoforte, poi abbiamo al basso Carla Kaufman, alla batteria Bob Blankenship, e quindi buon ascolto con Katie Wolcup. Blues in the night, I haven't had those in the night for quite a while. Life is serene. I'm sure there's many folks who know what I mean, and they smile. Uncomplicated, my bed is made and I can't sleep in it till noon. Decisions made with ease, no one to ask or please. And if I want a spoon, well, there's always my pillow. So blues in the night, well, you can keep them, I got no use for them now. No, Mr. Bright, that still is better than spending time with Mr. Wrong and having blues in the night for your song. Them now. bene, questa era la musica di Kathy Walkup dal CD The Secret of the Song. Noi ci siamo ascoltati il pezzo che apre l'album intitolato Blues in the Night, una composizione originale, musica e liriche tutte a cura di Kathy Walkup, che in questo pezzo era supportata musicalmente da Benny Watson al pianoforte, Carla Kaufman al contrabbasso, Bob Blankenship alla batteria. E con questo bel pezzo di Kathy Walkup, che ci ha regalato un blues veramente molto dolce e nello stesso tempo intenso, per ben concludere la nostra trasmissione, appunto si conclude anche Anima Jazz numero 669, e l'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.